Radio 24 Reportage. Mosca, alle radici dell'odio, di Luca Galassi. Metropolitana Tretiakovskaya, cuore di Mosca, 7 di sera. 8 adolescenti si presentano con il cranio rasato, i pantaloni con i risvolti e gli anfibi lucidi. Hanno fibbie con svastiche e croci celtiche, tatuaggi, catenine di metallo che escono dalle tasche, piercing. Sono i giovani esemplari della nuova generazione russa di skinhead. Vajehali, fa uno di loro. Andiamo. E ci mettiamo in marcia verso il luogo dell'incontro, un luogo segreto. Seguendo i loro passi penso ai miei tratti caucasici. I delitti a sfondo razziale in Russia superano la 50 ogni anno. Si ammazzano i ceceni, gli azeri, i kazaki, i tagiki, gli armeni. Si ammazzano i caucasici. Li ammazzano gli skinhead. Invece di un sottoscala buio, ideale per riti neonazisti e diavolerie esoteriche, arriviamo in uno dei luoghi più onorati della Russia, la Fondazione per la Conservazione della Cultura Slava. L'ascesa al potere di Putin si è accompagnata a una dilagante ondata di nazionalismo e la sua retorica anti-occidentale ha alimentato una riscoperta dei simboli della cultura slava. In questo rinascimento identitario la Chiesa ortodossa si è fatta veicolo della coscienza e dell'orgoglio nazionale. All'interno dell'istituto un prete ortodosso attende gli adolescenti. La predica comincia. Preparatevi a difendere la vostra madrepatria, dice padre Pavel, in un sermone ricco di metafore, riferimenti storici, richiami al mito. Perché bisogna difendere la nostra madrepatria? Chiede uno dei ragazzi. Per evitare le invasioni che minacciano il paese, la fede e la nazione, gli viene risposto. E poiché la fede è lo spirito della nazione, può essere necessario difenderla dal male anche con la spada. Uno dei ragazzi si avvicina. In un gesto di spavalda vanteria si alza la felpa e mi mostra un tatuaggio con la scritta «Russo», come un marchio di fabbrica. La fibbia della sua cintura è originale, dice. Apparteneva a un ufficiale della Wehrmacht, l'esercito nazista. Una ragazza ha un polpaccio tatuato con una svastica. A 28 anni il capo dei giovani di Slavianski Sajuz. Significa Unità Slava ed è l'organizzazione neonazista più importante di Mosca. Igor. Come ti chiami? Igor. Da quanto tempo sei in Slavianski Sajuz e negli skinhead? Sono membro dell'organizzazione da un anno circa, ma skinhead lo sono sempre stato e lo sarò fino alla morte. Cercavo un movimento che fosse in grado di arrestare il declino del nostro paese e l'ho trovato in Slavianski Sajuz. È un'organizzazione radicale che si batte per la difesa dell'identità slava. Vi battete per strada? No, una volta, da giovane. Personalmente oggi non mi batto più in strada. E prendete parte ai pestaggi? Solitamente no, ma se vedo uno straniero che si comporta male nei confronti di un cittadino russo, allora ovviamente difendo il mio connazionale. Quando mi trovo in strada uso le mani solo se uno non ci sente a parole. È inevitabile, perché ci sono tanti stranieri che si comportano come se questo paese fosse loro. Io quando un ceceno o un daghestano dice a una nostra donna «Vieni qui, bella figa», mi sento personalmente insultato. Così come mi offende vedere una nostra donna che esce con un caucasico, quelli pieni di soldi, quei macchinoni, quelli arroganti. Noi, per strada, facciamo quello che la polizia non fa. «Siamo per la razza ariana», dice uno dei ragazzi. Gli fa eco una ragazza, poco più che maggiorenne. «Siamo per la supremazia dei bianchi». Sorridono tutti mentre fanno il saluto fascista, come se fosse un gioco. Cosa faranno una volta che si troveranno davanti il male di cui parla il prete? Come giudica le persone che picchiano per strada i non russi? È il modo giusto per difendere la patria? Considero un peccato picchiare la gente per strada senza fare distinzione, anche perché può ritorcersi contro questi ragazzi. Così possono dare la colpa a coloro che si preoccupano del futuro della patria dicendo «Ecco, guardate questi, vanno in giro a picchiare la gente». Non ho capito bene in che modo ci si deve difendere concretamente senza violare la legge. Questa è la domanda delle domande. Come ci si può opporre se la legge russa in tanti casi va contro lo stesso popolo russo. La nostra gente è umile di fronte alla legge. Se l'incontro con questi ragazzi darà risultati positivi, non posso esserne che contento. Pensa che per difendere la patria bisogna uccidere gli stranieri? Ciò che si trova in strada oggi è indecente. Quando nella mia amata città si consente a pervertiti di fare le loro manifestazioni, il mio dovere è scendere in strada e contrastare tutto ciò. Se questi ragazzi contestano tali manifestazioni prendendo parte a pestaggi, credo che abbiano ragione. Anche i caucasici si comportano da fuori legge, danno fastidio alle nostre ragazze, le picchiano, le ammazzano. Bisogna opporsi a questo. Sono venuto qui per avere un'idea di chi fossero i militanti skinhead di Slavianski Sayus. Mi ci ha mandato Dmitry Demushkin, l'ideologo dell'organizzazione. Un centinaio dei suoi membri sono stati incarcerati perché accusati di svariati omicidi a sfondo etnico. Qualche settimana fa è iniziato il primo processo a loro carico. Intervistato, Demushkin parlava senza guardare mai negli occhi. Come è nato il suo movimento? Da una scheggia di Unità Nazionale Russa, partito e formazione paramilitare di estrema destra, oggi al bando. Ci spiega in cosa consiste, qual è la sua ideologia, quanti membri ha? Non è possibile fare stime precise. Anche se i membri attivi non sono molti, la nostra capacità di influenza è abbastanza estesa, anche tra soggetti eterogenei. Siamo una formazione nazionalsocialista che ha profondi legami con la religione ortodossa. Quelli finiti in carcere hanno agito per conto proprio. Noi rigettiamo categoricamente ogni accusa. Per cosa sono stati condannati? Per estremismo, percosse, incitamento all'odio etnico, omicidio, terrorismo e altro. Chi ha commesso questi delitti ha agito non in nome dell'organizzazione, ma stravolgendo il suo credo ideologico. In Russia siamo il gruppo nazionalsocialista più influente. Un gruppo musicale che si chiama Zyklon B, per esempio, ha un fan club di circa un centinaio di persone. Non sono membri, ma simpatizzano per noi. Alcuni membri del governo e del Parlamento condividono la nostra ideologia, così come sportivi, scienziati, intellettuali. Siamo per la tutela della lingua, della cultura e dell'unità del popolo slavo. Che lavoro fa? Organizzo concerti, festival, corse motociclistiche, eventi sportivi. Adesso stiamo preparando il campionato mondiale di lotta senza regole. In apparenza quest'uomo potrebbe essere un banale impiegato che lavora in un ufficio banale e fa un lavoro banale. Eppure fu arrestato nel 2006 in relazione a un attentato a una moschea, dove una bomba esplose senza provocare vittime. Nel 2004 l'organizzazione antifascista Movimento Giovanile per i Diritti Umani ricevette una lettera che minacciava una notte dei lunghi coltelli per due attivisti, Andrei Yurov e Ludmila Alexieva. Saranno i prossimi dopo Ghirienko, recitava la missiva. Nikolai Ghirienko, consulente antifascista le cui perizie servirono a incarcerare diversi skinhead, fu assassinato il 19 giugno 2004. L'autore della lettera, secondo il sito di informazione russo Mosnews, era proprio Dmitry Demushkin. Slavianski Soyuz, la cui sigla in russo è SS, divulgava sul suo sito che l'omicidio di Ghirienko era preparato da tempo. Appariva un giovane vestito con l'uniforme delle guardie d'assalto nazionaliste, pistola alla mano, e sotto la frase «In memoriam Ghirienko». I siti non sono stati chiusi, i loro proprietari e moderatori non sono stati incriminati. Così scriveva Anna Politkovskaya nel suo diario russo il 19 giugno 2004. In Russia molte aggressioni a sfondo razziale non vengono denunciate per paura. La risposta delle autorità è sempre stata debole, se non del tutto inefficace. La giustizia penale solitamente classifica tali episodi come atti di vandalismo, invece di far riferimento all'articolo 282 del codice penale, che li qualifica espressamente come delitti razziali. Il processo a Slavianski Sayus è il primo in assoluto a contemplare tale accusa per gli estremisti di Demushkin. Ripensando all'intervista, torna alla memoria il nome del gruppo musicale da lui citato, Zyklon B. Un nome in qualche modo familiare. In una stanza delle baracche di Auschwitz, quella adibita museo, accanto alle matasse dei capelli, alle scarpe, ai vestiti degli scomparsi, c'era una catasta di barattoli vuoti. Contenevano il gas letale che uccise milioni di persone. Su ciascuno la stessa scritta: Zyklon B.